due carote. Curry indiano, quanto basta? Sale, quanto basta? Mezzo limone, quanto basta? Quanto basta? Quanto basta? Quanto basta? Quanto basta? Quanto basta? 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Yogurt greco, o panna, 150 grammi, no, facciamo, no, 250 grammi, no, quanto basta, quanto basta, quanto basta, quanto basta, quanto basta, quanto basta, quanto basta, quanto basta, no, no, no, preparazione, no. Riguarda il viso, mettete a bollire dell'acqua in una pentola, salatela e fateci cuocere il riso dentro. Una volta che bollisce, è ovvio. A cottura ultimata aggiungeteci una noce di burro e mescolate. Ponete il riso in delle terrine circolari per formare dei tortini. Passiamo alla preparazione del pollo. Tagliate il pollo a dadini e mettetelo a rosolare in una padella abbastanza capiente insieme all'olio. Nel frattempo tritate finemente cipolle e carote. Se vi prende troppo tempo, potete tagliare grossolanamente le cipolle e le carote, inserirle nel mixer e frullarle. Quando il pollo prende un colorito dorato, aggiungete il battuto di cipolle e di carote. Fate rosolare a fuoco basso. Quando le cipolle hanno sudato a sufficienza, aggiungete il curry e mescolate. Carote. No, fate cuocere altri 15 minuti. Ultimata, togliete la padella dal fuoco. A questo punto aggiungete lo yogurt e mescolate, aggiungete il limone e mescolate. Rivoltate le terrine al centro di un bel piatto piano. Circondate i tortini che ne usciranno con il pollo che avete appena cucinato. Il piatto è pronto. Il pollo al curry. No. Pensa come sono bravo.